storie italiane. 5 in un baccello. Tanto tempo fa vivevano 5 piccoli piselli in un baccello. Erano tutti diversi, vivevano insieme e il baccello che li conteneva non si era ancora schiuso. Erano troppo piccoli per sopportare il sole. Dormivano tutto il giorno. Ma di notte erano soliti parlare tra loro e ascoltare la musica che li circondava, soprattutto la musica della luna. La luna, quando era a mezzaluna, era solita legare alcune corde d'argento alle sue estremità. Suonava l'arpa e cantava alcune belle canzoni per i piselli. Quando la luna diventava piena, suonava la batteria. I piselli si svegliavano, ascoltavano il suono dei tamburi suonati dalla luna. Ogni pisello aveva una propria reazione alla musica della luna. Adoro questo suono di batteria! Boom, boom, boom! Amo questa musica! Adoro le sue nacchere! È rilassante! Mi piace lo stile che usa per suonare l'arpa. È bellissimo! È così melodioso! Oh, perché non ci può essere un attimo di tranquillità? Lasciate stare la musica, a me piace dormire il più possibile. Basta seguire il corso della vita. Il quarto pisello era molto pigro. Amava dormire tutto il tempo. Il quinto pisello, il più giovane, era molto diverso dagli altri quattro. Io adoro tutti i tipi di musica. Le nacchere, i tamburi e anche l'arpa. Ognuno di essi è speciale, mi rende felice quando li ascolto. I piselli crescevano giorno dopo giorno. Non lo capirono finché si ritrovarono tutti per duri. Capirono che il loro baccello era diventato troppo stretto. Per favore, spostati! Non ho spazio per muovermi! Anche io non ne ho! Mi sento bloccato! Il baccello è diventato troppo stretto per viverci! Sì, non sono più in grado di dormire qui dentro. Per favore, fatemi un po' di spazio. Sono il più piccolo, ma anche per me è difficile spostarmi. Tutti si lamentavano e si chiedevano a vicenda di spostarsi. All'improvviso, il baccello dei piselli si aprì e una luce abbagliante entrò. Oh no! Chi ha aperto il baccello? Oh. Accidenti! Perché non mi fate dormire? Sbrigati a chiudere il baccello! Per favore! Non riesco nemmeno ad aprire gli occhi! Non è più possibile! Madre Natura l'ha aperto! Wow! Il nostro baccello si è aperto! Sono felice! Dopo pochi minuti, quando tutti iniziarono ad abituarsi alla luce del sole, si misero a discutere. Penso che abbiamo una possibilità. Che tipo di possibilità? La possibilità di uscire e conoscere il mondo. Pensi che sia una buona idea? Io credo che il mondo là fuori sia pericoloso. Ma perché stiamo sprecando il nostro tempo discutendo sulle possibilità? Voglio uscire e vedere i diversi colori del mondo. Voglio godermi la vita fuori da questo baccello! Fai quello che vuoi! Lasciatemi dormire ancora un po'! Valutiamo le possibilità! Lasciare il baccello è una buona idea? Fratelli, noi siamo qui da molto tempo! Non conosciamo nulla del mondo là fuori! Fratelli, andiamo a goderci la vita! Siamo finalmente liberi da questo baccello! Discussero per un po' e decisero di uscire fuori dal baccello. Presero quest'opportunità come un'avventura e infine decisero di andare via. Uno dopo l'altro scivolarono giù dal baccello. Tenetevi ben stretti al gambo! Non so dove atterreremo, attenti! Prendimi se ci riesci! Spero di trovare un buon posto dove dormire. Dove siete finiti? Non lasciatemi solo! Qui si scivola! Tutti atterrarono su un piccolo solco. Erano molto felici mentre esploravano il mondo per la prima volta. Wow! Ma com'è bello qui! Sì, sono felice di essere qui. È stata una saggia decisione lasciare il baccello. Io voglio dormire. Trovatemi un buon posto. Ehi, guarda! Noi vivevamo su un baccello molto alto da terra. Mentre stavano discutendo del nuovo mondo che stavano per scoprire, un ragazzo passò di lì e li vide. Ah, questi piselli sembrano perfetti per la mia fionda. Devo prenderli subito. Il ragazzo li raccolse tutti uno per uno. Il primo pisello volò così lontano in cielo che tutti gli altri non riuscirono nemmeno a vederlo. No! Sto per morire! Il ragazzo lanciò via il secondo, il terzo e il quarto con la sua fionda. Qualcuno, per favore, mi aiuti! Non so dove atterrerò! Questo ragazzo ci sta uccidendo per il suo divertimento! Vorrei poter cadere ad una velocità tale da poter dormire senza essere disturbato. E infine lanciò il pisello più giovane. Wow! Sto volando tra le nuvole come una farfalla! Oh, mio destino! Portami in un luogo dove possa avere una vita fantastica! Il pisello più giovane atterrò su un davanzale. Oh, per fortuna sono atterrato al sicuro! Mentre guardava attraverso la finestra, vide una bambina sdraiata nel suo letto. Non stava bene e tossiva continuamente. Sua madre le stava chiedendo di mangiare. Per favore, mangia un po' di zuppa. Ti darà la forza di combattere la tua malattia. Scusa, mamma, ma davvero non ho più voglia di mangiare. Amore mio, ma se non mangi, come farai a diventare forte e sana? Il pisello vide che la madre stava cercando di nutrire la bambina, ma la ragazza era troppo malata per mangiare. La madre sembrava molto preoccupata per sua figlia. Di notte, quando si addormentò, sua madre pregò per lei. Per favore, aiuta mia figlia a riprendersi da questa malattia. Non posso vederla così sofferente. Benedicila con una buona salute, per favore. Ti supplico per la vita di mia figlia. Anche il pisello era triste per la madre e la bambina. A tarda notte, egli entrò nella stanza, attraverso la finestra. Con la luna piena nel cielo, il pisello intonò una canzone dedicata alla bambina. Bang, bang, bang, la luna suona per te. Bang, bang, bang, io canterò per te. Chi è? Ho sentito un suono proprio ora. Chi è? Sono io! Sono qui, alla finestra! Tu sai parlare? Non ho mai visto un pisello parlare! Posso anche cantare! Stavo cantando una canzone per te, con la batteria della luna! La batteria della luna? Sì! Devi sapere che la luna suona la batteria quando è piena! Ma io non riesco a sentirla! Tu devi essere un pisello speciale! Ma tutti in questo mondo sono speciali. Tutti hanno un po' di musica dentro. Dobbiamo solo concentrarci ed ascoltarla. Vuoi dire che posso ascoltare la batteria della luna? È possibile! Tutto è possibile in questo mondo. Oh, sì! Posso sentire la batteria! Non ti ho appena detto che tutto è possibile? No. Sai, c'è una cosa che non è possibile per me. E perché? Io non guarirò mai da questa malattia. Oh, non dirlo. E se io diventassi qualcosa di diverso da un pisello? Anche tu potresti guarire, piccola bambina. Ma tu sei solo un pisello. Cos'altro puoi diventare? Certo che posso. Credi in te stessa e puoi fare qualsiasi cosa. Se io diventassi qualcosa di diverso da un pisello, anche tu potresti guarire. Va bene, lo farò. La mattina seguente, quando la ragazza si svegliò, si ricordò della conversazione con il pisello. Lo cercò alla finestra, ma non lo trovò. Oh, deve essere stato un sogno. Come può parlare un pisello? Si affacciò alla finestra e guardò la fresca mattina con i primi raggi del sole. È bello là fuori. Com'è che diceva? Non posso credere che tu non guarirai. Sì, penso che starò meglio. Il giovane pisello cercava di mantenere la parola data. Rimase fuori dalla finestra. Si avvolse nella terra per alcuni giorni. Passò il tempo e quando arrivò l'inverno, la polvere lo aiutò a sopravvivere attraverso la neve. Ogni giorno si stava spingendo verso il suo obiettivo. Se riesco a resistere un altro giorno a queste intemperie, penso di poter raggiungere il mio obiettivo. Cercherò di mantenere la mia promessa. Il pisello più giovane sopravvisse durante l'inverno con la sua forza di volontà. Giunse la nuova stagione e il piccolo pisello iniziò a germogliare. Si trasformò in una pianta con alcuni rami e un paio di bellissimi fiori. Un giorno, la madre della bambina notò la bella pianta di piselli germogliata fuori dalla finestra. Guarda, cara! C'è una pianta di piselli sul davanzale! Oh, wow! Ma come avrà fatto a crescere? Ha mantenuto la sua promessa, mamma! Ha mantenuto la sua promessa! Cosa? Chi ha mantenuto la promessa? Il pisello! È diventato un bel germoglio! Ora credo che riuscirò a guarire! Se un pisello ha cambiato la sua vita, perché non posso io? Sì, mia cara. Certamente. Guarirai molto presto. La bambina sorrise al germoglio. Sua madre ringraziò la pianta e se ne prese cura.